Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. C'è chi si è preso ferie, chi ha fatto centinaia di chilometri. La corsa all'ultimo feticcio tecnologico della Apple, l'iPhone 6, ha comportato in certi casi un'attesa di 24 ore. Una tendenza che si è ripetuta nei principali Apple Store italiani. Qui siamo a Carugate nel Milanese. Lunghe file, gente assonnata, almeno prima dell'arrivo di cappuccini e caffè. Poi a ridosso dell'apertura del negozio è arrivata un'euforia generale. Sono arrivato alle 3:30 di pomeriggio e sono arrivato 12°. Lunghe file anche all'Apple Store Porta di Roma, dove c'è stato un imprevisto blitz del blocco studentesco. Esponenti dell'associazione vicina a Casa Pound hanno lanciato uova e farina su chi era in coda. Lo abbiamo fatto, hanno spiegato poi, per svegliare una gioventù assuefatta agli status symbol delle multinazionali. Code si sono registrate anche all'ombra delle due torri nel centro di Bologna. L'arrivo dei nuovi smartphone è stato caratterizzato da... Che azione di ardimento! Tirare le uova ai poveracci che già stanno da una notte a aspettare di comprare l'iPhone. Ieri trincea baionetta, oggi un iPhone che ti aspetta. Cioè, i vostri nonni hanno difeso il suolo della patria stando in trincea con la baionetta e voi state qui a perdere tempo a fare la fila per l'iPhone. Ma mio nonno l'ha fatta davvero, la guerra in trincea, me l'ha raccontata, mi ha fatto vivere di sensi di colpa per metà della mia fanciullezza, perché io non avevo le ferite di schegge di bomba in testa e non avevo passato giorni e giorni e giorni in baionetta, in trincea. Mio nonno faceva sempre le puzze davanti a tutti, diceva: le ho fatte perché sono stato mesi in trincea e dovevamo stare sempre attenti, non potevamo andare in bagno, quindi ho questo problema, e giustificava così il suo decorso in guerra. Certo, devo dire che cantavano anche pugnal fra i denti e bombe a mano, questi erano le uova marce, le uova e la farina, perché le uova marce è un'allegoria letteraria. Dove si comprano le uova marce? Non esistono le uova marce, si comprano le uova al supermercato, si tirano ai poveracci rincoglioniti che stanno lì da una notte aspettando di comprare l'iPhone. Poi ho visto anche un manifesto che mi fa riflettere un po' di più. Si vede due file parallele: da una parte tutti quelli che fanno la fila, stanno notti alzate per comprare l'iPhone 6 Plus, ma funzionerà anche per qualsiasi altro gadget lanciato dal mercato, e parallelamente la fila mesta, triste, irreale, inconsueta di fronte alla mensa della Caritas, dei rappresentanti della classe media italiana, che mai avrebbero immaginato e pensato di mettersi in fila assieme a clochard, senza dimora, mendicanti, e stanno lì dignitosi, aspettano il loro piatto di minestra. Beh, qual è il punto di caduta di tutto questo? Dobbiamo colpevolizzare le persone che bene o male incrementano un mercato, spendono comunque qualcosa, visto che quello che stanno dicendo tutti gli indicatori, che gli italiani, pochi soldi che ancora hanno, se li tengono ben cuciti nel materasso. A meno questi spendono, cosa volete? Stiamo sempre a parlare che i consumi vanno alimentati e incrementati, e questi hanno, non entro in merito alla qualità, alla campagna e tutto, però hanno un prodotto di cui la gente non può fare a meno, si sente socialmente gratificata da poter avere questo prodotto, non si comprerà vestiti nuovi, non gliene importa nulla, non si compra più le automobili, va coi mezzi o se le affitta, ma non può fare a meno di avere l'ultimo gadget elettronico. Perché? Perché l'ultimo gadget elettronico ti dà l'idea che tu sei dentro comunque una comunità. Dice: ma c'avevi già quello vecchio. Ma no, ma quello vecchio che vuol dire? Cambia, un'altra cosa, averci in mano quello vecchio sa di sfiga. Io posso avere anche una camicetta comprata al mercatino, avere le scarpe della bancarella e un paio di jeans, ma se ho l'iPhone in tasca io posso andare ovunque. O se ho il corrispondente, non voglio fare pubblicità mirate, il corrispondente di altre case che comunque abbia una sua dignità di possesso. E perché uno deve rinunciare ad investire il suo tempo e le sue risorse in una gratificazione sociale? E se ai nostri nonni piaceva andare in piazza con corone di fiori, con le stampelle, con donne osannanti, quella era allora la gratificazione sociale, erano eroi. Mio nonno il 4 novembre, nei conseguenti 50 anni, andava in piazza con i mutilati invalidi di guerra, perché ho grande rispetto, sfilava, era felice, era al centro dell'attenzione. La nonna la sera prima gli lucidava le medaglie. Ognuno fa delle scelte, in fondo sono 60 anni abbondanti che non c'è una guerra in questo paese, e quindi se dobbiamo ritornare a una tradizione trasmissione fatta di baionette e bombe a mano, dobbiamo andare proprio indietro. I ragazzini che hanno tirato le uova e la farina, gli altri ragazzini probabilmente non sanno nemmeno di cosa sia lontanamente la guerra, e quindi evidentemente dobbiamo destreggiarsi fra questi due estremi. Un estremo che si appoggia su una sorta di romantico idea di un nostro destino guerriero, che in realtà non so quanto mai è stato perseguito con entusiasmo e con soddisfazione alle nostre latitudini, e altri che invece pensano che la maniera migliore per vivere e sopravvivere è avere il nuovo telefonino in mano, perché quello ti mette al centro comunque dell'attenzione sociale. Come la pensate? 800 24 00 24. Dalle 9:30 di giovedì. Di giovedì sera o di giovedì mattina? No, mattina. Questo ragazzo è solo il primo di una lunga fila di Apple fanatici in coda in un centro commerciale di Carugate alle porte di Milano per accaparrarsi l'ultimo modello di iPhone. Tutti gli anni sono qua sempre a prendere il nuovo iPhone che esce. Sono centinaia. Ma che cosa li spinge a fare ore e ore di coda? L'iPhone è diventato indispensabile per me, diciamo. Saltare la scuola. È bella fare questa esperienza di venire qua, stare in coda con tutta la gente, parlare con le persone. Diciamo che ho aiutato mio figlio a prenderlo. Tutto per colpa sua. Ma c'è anche chi alla nottata di fila ha preferito dire no. Fortunatamente l'ho prenotato in pochi minuti in cui è stato disponibile online. E dopo un'attesa così lunga... 800 24 00 24, penso che nelle lunghe code agli Apple Store ci sia anche un significato sociale, si scazzeggia, si passa la notte. Ma pensate che le generazioni precedenti hanno fatto finta di dare un senso politico alle occupazioni scolastiche, che era un gran tromba tromba in cui ci si chiudeva dentro la scuola e stava lì una settimana, e ancora ci sono mamme che dicono ai figli: ah, occupate la scuola, fatevi sentire, quando so benissimo che è grandissima, enorme, totale buffonata erano le occupazioni dei licei, erano fatte strategicamente nei periodi in cui ci andava meno di studiare, ci si chiudeva dentro, si faceva di tutto, era un gran divertimento. E quindi probabilmente se questi ragazzi fossero anche digitalmente avanzati, se lo acquisterebbero online, spenderebbero meno, gli arriva a casa. No, vogliono fare la fila, stare lì, vivere insieme, bivaccare, come andare a un concerto, perché negarlo? Marco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Come la pensi? Guardi, io penso esattamente al contrario di lei. Cioè, beh, l'ho chiamata apposta. Innanzitutto le persone che hanno buttato la farina addosso manifestano dei valori di destra veri, quindi... Scusi, no, posso dire una cosa? Io la destra l'ho conosciuta, l'ho anche praticata. Tirare farina e uova è una buffonata, è un gioco da goliardi. È un discorso contro le multinazionali, contro un discorso di voi andate a dare dei soldi alle multinazionali, eccetera, mentre in Italia sta succedendo questo, quest'altro. Invece di andare in piazza per questo, quest'altro, andate lì a fare la coda per questo. Questa è una cosa, è un simbolo. E a chi dovrebbero darli? Ma non è il discorso a chi dovrebbero darli, il discorso è che non dovrebbero stare lì a fare la fila. Se infatti che uno vuole l'iPhone può anche comprarselo senza fare la fila, perché mi sembra veramente da dementi. Ma scusa, ma se loro diverte, io di operazioni dementi ne vedo tante tutto il giorno. Vedo dementi che vanno alla partita di calcio e occupano mezza città. Cioè, ognuno a Londra, sono punti di vista. Ci sono stati dei contusi a Londra per questa cosa, non so se ha sentito. Quando sono i saldi che le signore vanno a comprarsi le borsette. Qual è il problema? Ma è una cosa assurda, la Volga. Qui passano per normali delle cose. No, non è normale. Normale non esiste il termine normale. Sono fenomeni di costume che appartengono alla contemporaneità. Uno li studia, li osserva. Mi spieghi. Marinetti e i suoi compagni, quando andavano nei teatri a fare rappresentazioni futuriste, venivano prese a pomodori in faccia, a cavolfiori in faccia. Erano un'avanguardia, non erano capiti. Ma almeno era un movimento culturale quello. Era una cosa culturale, non c'entra niente. Parli con qualche filosofo di questa roba. Ma guardi che non è che deve dar retta a me, glielo dico proprio, guardi, non ho bisogno di parlare con il filosofo, mi permette, che l'osservo da anni il mondo come cambia. Le dico, oggi la cultura va in quella direzione, va nella direzione della moltiplicazione di se stessi, dello sperimentare le protesi emotive. Evidentemente questa è la protesi più allettante. I ragazzi vogliono avere l'iPhone 6, ma domani potrebbe essere un altro tipo di telefono, non so. È la cosa che più li gratifica, che in questo momento ha maggiore dignità di esistenza. Questo è il fenomeno da osservare. Tirare le mele a questi non serve molto, perché questi non li cambierà mai l'idea. Appartengono a una cultura di quest'epoca che stiamo vivendo. E la cultura dell'epoca in questo, che stiamo vivendo, dà un grande valore alla socialità attraverso protesi. Mica dico sia bene o sbagliato, io non faccio il moralista, l'osservo. Sono rappresentanti della nostra epoca. Poi uno può pensare anche che occorra fare la rivoluzione, cambiare il mondo. Questo è un altro tipo di problema. Trovo passatista il gesto di tirare le mele a questi o tirare le uova a questi. Cioè, un gesto passatista, secondo me, è una persona che vuole rappresentare un ideale rivoluzionario di destra, d'Annunziano, non dovrebbe fare operazioni passatiste, operazioni rivoluzionarie. Ivo Germano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sociologo, autore insieme a Danilo Masotti, un libro intitolato New Golden Dream e altre storie degli anni Ottanta. Quindi ecco il filosofo che cercavamo. Abbiamo un sociologo. Non troppo, minimo sociologo, ecco, modesto. Vabbè. No, sentendo anche gli interventi di Riverbero, direi che potremmo partire da una laconica domanda: cosa non si fa per la performance? Cioè, le trovo entrambi due lati della esigenza di performance che questa società impone. Ecco, io non avevo azzerato WhatsApp, quindi si è sentito. Prego. No, va bene, ecco, WhatsApp è anche molto, diciamo, valgare, siamo in mezzo ai signori dei tempi. Quindi la performance, diciamo, futur situazionista, con tutti, diciamo, gli annessi e connessi di voler denunciare. Ma chi è più situazionista? Il ragazzo che si accampa, e passa la notte lì, o quello che gli tira la farina? Perché entrambe sono due cose folli. Sulla farina, poi sulle uova si può scivolare. Allora, che però non è una novità, mi permetti, è quella che si tirano da decenni alla fine dell'ultimo anno di scuola, certo, ai bambini. Sì, è una cosa vecchia. Tirare altre cose avrebbe fatto, che ne so, gatti morti, altre cose, sì, ma la farina, come... I raudi si tiravano, capito, i petardi, cioè non si scopre, questo è un paese che non scopre nulla, riattualizza sempre il medesimo, quindi anche in questo caso è facile, come dire, dividersi fra tifosi pro e contro, invece io andrei oltre la logica binaria, per forza pro e contro. Diciamo che magari quelli che fanno la fila si passano una serata, danno due o tre baci, dicono due o tre boiate. È quello che dico io, è come un'occupazione scolastica. Esatto, e trovano un'appartenenza, la stessa appartenenza che su altri livelli, peraltro tutto è rispettabile, non voglio entrare in merito, trovano quelli tardi epigoni di un Novecento che aveva sì quello un secolo fatto della bellezza, il proprio crogiuolo, anche molto drammaticamente, mandando dei ragazzini a morire in due guerre e con tutti gli annessi connessi delle avanguardie. Lì c'era stato il Novecento calibrato sulla gioventù, la giovinezza nelle canzoni, sull'arditismo, la gloria. Figuriamoci, ma non c'era niente, non c'era manco il cinema, che dovevano fare se non andare? Era in bianco e nero tutto, non c'era nulla anche nel paesino remoto della provincia marsicana, e quindi c'era un moto, diciamo, un moto proprio a certe esperienze. Adesso è ovvio, una società frammentata, iperindividualizzata, produce queste ritualità. Fermo un attimo. Francesco, buongiorno. Buongiorno, voglio raccontare, io non ho partecipato alla rivoluzione smart, sono un informatico, ma non ho mai sentito il bisogno di comprare questi apparecchi, però di recente penso, forse cambierò idea, perché una persona, un conoscente, mi ha visto maneggiare un Nokia di quelli, insomma, non volevo nominare la marca, ma sì, quelli vecchi. Quelli Omare, che posseggo anch'io, che perlomeno per un giorno uno non deve caricarlo, c'ha il suo vantaggio. Sì, dura tre giorni la carica. E mi ha chiesto, ho detto, ma c'è un telefono da spacciatore? Ho detto, come da spacciatore? Perché questi telefoni garantirebbero forse meno tracciabilità, diciamo, a livello di GPS e altre applicazioni, per cui mi ha detto se era uno spacciatore, ho detto no. Però a questo punto comincio l'aspetto sociale di possedere un vecchio telefono comincia a infastidirmi un po', da quando... Però si rende conto al momento, onestamente, la dotazione di una persona che deve lavorare è uno smartphone con scheda dati e un telefono vecchia generazione per telefonare senza dover sempre cercare una presa, non vedo alternative al momento. Certo. E quindi non ci vergogniamo, noi siamo quelli che poi concretizzano il pensiero dell'epoca in cui si vive, non ci facciamo incantare da quelle che sono le apparenze, ma osserviamo i fenomeni. Melog, cronache meridiane. Attesa finita, l'iPhone 6 è arrivato anche in Italia. Non sono mancate le code davanti ai negozi e qualcuno ha dormito in sacco a pelo per non mancare l'appuntamento. Attimi di tensione a Roma, dove c'è stato un lancio di uova sulle persone in fila. e attesa finita anche per FIFA 15, più che un videogioco un fenomeno di costume. Lo scorso anno, con oltre 1 milione di copie vendute in Italia, è stato il prodotto di intrattenimento che ha incassato di più, libri e film compresi. L'ultima versione 8.0024, stiamo dibattendoci fra una versione passatista e moralista e una versione assolutamente dissoluta nel considerare la modernità e la contemporaneità. Gli appassionati, i drogati di nuova tecnologia che fanno le file, gli altri dicono no, ci sono cose più serie. Mi scrive un ascoltatore, Nicoletti, per quelle scene di file sono il nulla assoluto, le sembrano normali, considerando si tratta di massa di gente che non apre un libro, non va ai musei, non celebra le cose serie della nostra cultura. Ma che, scusate, dove si celebrano le cose serie della nostra cultura? Nelle biennali, nelle mostre, nelle conferenze, in televisione, al cinema, nelle pagine dei giornali, nelle terze pagine dei giornali. Dove? Spiegatemi dove. Occorre sapere che in questo momento altro non c'è da fare che cavalcare la tigre di quello che succede, osservare, vedere, carpire. Ora, che questi ragazzi siano probabilmente smidollati e vogliono l'oggetto in sé, ma a questi ne corrisponderanno altrettanti, che questo modello di telefono già l'hanno visto, già l'hanno smontato, già hanno capito come funziona, già sanno i punti deboli, già hanno progettato qualcosa di diverso, già l'hanno modificato. Sono quelli che un domani saranno gli ingegneri, saranno i pensatori, saranno i poeti, saranno i filosofi che detteranno quella che sarà lo stile del tempo che vivremo. Gianni, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Senta, due considerazioni se possibile. Una, per me questo, diciamo, questa esposizione di queste cose che non dico inutili, ma a certi livelli siamo nell'assurdo, lo giudico spesso un calcio in faccia a chi veramente ha delle problematiche esistenziali ben diverse. Si può, mi scusi, allora è inutile tutti i negozi di abbigliamento, perché nessuno ha gli armadi vuoti e quando fanno i saldi che c'è la fila di gente è inutile, dovrebbero chiudere tutti i negozianti, tutti i commercianti. Noi inutili no. I supermercati, perché basterebbe un pezzo di pane e una fetta di formaggio per vivere. Cioè, tutto l'inutile è quello che alimenta la macchina dell'economia e non spariamoci, sì, sopra l'inutile. Quello che dice, però qui non si parla di non acquistare un prodotto, qui si parla di questa malattia, di questa gente che si mette in queste condizioni, e molto spesso capita che magari sono anche in difficoltà. Io ho conosciuto persone che magari si lamentavano, fine mese diventava dura eccetera, però il figlio aveva sempre l'ultimo modello dell'ultimo, insomma, cioè doveva esserci tutto, quella cosa è sacra. E poi, se possibile, ancora un secondo aspetto. Prego. Invece, quella stessa gente che vediamo a fare le code per le cose più a volte assurde, diciamo meno importanti, e poi la stessa gente che quando vai in un ospedale, e io purtroppo per motivi diversi devo frequentarli spesso, protesta perché ha fatto la coda di un'ora o 2 ore per magari per delle cose. Ma da quello poco. È un gioco, vanno lì perché gli piace fare la fila, non si lamentano, perché stanno lì la notte intera, mangiano, bevono, suonano la chitarra, si fanno le canne, si pomiciano, fanno di tutto, fanno, è il loro divertimento. Sì. Non è che sono dei martiri, hanno scelto di passare una serata nei mega store dell'elettronica. Paolo, buongiorno. Paolo, sono io. Pronto. Gliela dica lei, così capiscono. Volevo solo dire velocemente, io ho comprato questo telefono in un normalissimo negozio senza fare code. Ecco, vede, lei la dimostrazione, è la dimostrazione che è un'operazione quindi, sociale. Secondo me quello che dice lei è stato un evento, è stato un modo di trasformare una cosa in un evento. Come andare a un concerto, la stessa non cosa. Non avrei mai fatto questa coda, però avevo la possibilità e la voglia di comprarmi questo oggetto che mi divertiva e l'ho comprato, punto. Quindi senza fare abbastonate le celentate. Se loro vogliono fare, è sbagliato andare a fargli violenza se fanno una cosa innocua. Anzi, anche perché penso, immagino, adesso non vorrei di una bistacca, che uno può comprarselo online, ti arriva a casa. Normalmente, io l'ho comprato in un banalissimo negozietto di telefoni, telefonando, avete un giorno in cui è uscito? Sì, ce l'abbiamo, ok, sono passato e l'ho comprato. Accadde a me per l'iPad, mi ricordo anch'io, telefonai, c'era, ma non andai a prendere, la gente si faceva bastonate. Grazie, Matteo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno a lei. Niente, io anch'io non sono per un proclama di sconvolgimento sociale, insomma sono fenomeni che assistiamo tutti i giorni, questi qua. Purtroppo da una parte questa è la realtà e vabbè. Diciamo che però, scusi, ma lei ha visto mai le signore scannarsi davanti a un negozio dove ci sono i saldi? Litigare, farà borsettate? Cioè, ma guardi, non mi stupisco più di niente. Non mi stupisco per niente dire, perché c'è un fenomeno sociale che io sinceramente non so leggerlo, mi piacerebbe comunque capirlo in tutto e per tutto, ma comunque ci sono delle scene che sono allucinanti, ma anche nei semplici benzinaio, di quelle cose veramente incredibili. Attenzione, io da tempo non mando più a quel paese, anche se è una forma abbastanza poco rispettosa, le persone che mi tagliano la strada. Non conviene, sì. Perché No, perché sono fatti di cocaina fino alle orecchie, poi magari scendono e ti fanno anche male. Infatti, ma io questo non lo faccio l'abbiamo più. L'abbiamo capito tutti noi persone sagge. Allora, e dico che c'è un po' una patologia su questo, cioè sulla ricerca dell'oggetto di ultima uscita, di ultima generazione. Cioè, ce l'ho anch'io, ammetto. Io lo placo perché avendo quattro figli non posso sì, fare però tanto. Scusi Matteo, io vedo ancora processioni di gente che si fustiga fino a che esce il sangue, si taglia in crisi mistiche, cioè la follia fa parte dell'umanità, sì, i vattienti sono altrettanto folli, da gente coperta di sangue che si frusta e si taglia il torace con delle spugne col vetro dentro, mi sembra altrettanto folle. Ha perfettamente ragione. Non mi scandalizza, siamo uomini fatti anche di questo. Sì, certo dobbiamo anche avere però un diciamo discernimento su alcuni fatti perché io... Ma infatti lo faccio fare agli altri e guardo. Sì, io certo, Germano. Bisogna sì. Invitare le persone anche ad avere un discernimento, perché sennò dopo tutto si beve, tutto si digerisce, tutto si, mi perdoni, si caga. No? Mi dice un ascoltatore, mi scrive anzi, dice, ma perché le uova e la farina le vanno a tirare ai raduni dell'Harley Davidson, dove in realtà è una moda che è ancora più dispendiosa e più folle, andasse a tirare la farina ai motociclisti dell'Harley, poi vediamo quanto lo raccontano. Ivo Germano. Diciamo un casus belli, no? Se vogliamo metterla. No, io riprenderei, cioè, perché se facessimo in realtà con un raziocinio l'elenco delle addiction contemporanee, probabilmente queste manifestazioni sarebbero negli ultimi posti. Cioè, è perché sono legato a una parola che gira, ormai anche, non so, l'apertura del pizzicagnolo sotto casa è tacciata come evento, quando in realtà non è un evento. Mentre far la fila, cioè rientrare nel circuito dell'appartenenza, del sentirsi qualcosa di diverso momentaneamente, un afflato minimo, senza dargli assolutamente importanza né caratura sociale inestimabile, vuol dire esserci, stare con qualcuno e usare probabilmente anche l'iPhone come pretesto. Anche come perché pretesto. Scusami, Ivo. E poi scusami, volevo aggiungere un'altra cosa, cioè. Le risposte strutturali e moralistiche per me pagano un dazio troppo alto a quella che è una risposta più semplicemente simbolica. Sono pochi gli spazi in cui ti puoi confondere con qualcun altro. Quello è uno spazio. Ti puoi confondere, ti puoi divertire, puoi fare le foto mentre fai la fila, puoi condividere con gli amici le foto. Grazie Fabrizio Intonti, grazie Alessandro Chiappini, a domani.